Nella primavera del 1959 un maggiore dell'aviazione americana viene ricoverato in una clinica psichiatrica del Texas. Aveva tentato ripetutamente di togliersi la vita. Il suo matrimonio era fallito. Lui stesso era alcolizzato. 15 anni prima lo stesso uomo aveva una carriera brillante davanti a sé. Ma poi era sopraggiunto un avvenimento di vastissima portata per la sua vita. Venne destinato al pilotaggio dell'aereo, che gettò la prima bomba atomica su Hiroshima. Da allora il maggiore era perseguitato nei suoi sogni dalle immagini di uomini, donne e bambini giapponesi. La sua vita era crollata. Lo psichiatra che lo aveva in cura dichiarò che il maggiore tentava inconsciamente di punirsi per liberarsi da quel senso di colpa che provava a causa di Hiroshima e di altre azioni commesse. Il senso di colpa che non riusciva a superare distruggeva la sua vita. Pochi di noi soffrono sensi di colpa così atroci, così intensi, ma sono tante le persone, compresi i figli di Dio, che si sentono dilaniate dalla percezione del proprio fallimento, dalla disperazione o da colpe inesistenti. Credo che fra tutti i problemi che affliggono l'umanità, sentirsi accusati, avere dei sensi di colpa consci e inconsci, siano i sentimenti più frequenti. Alcuni figli di Dio trovano la pace e la serenità dai loro peccati quando riconoscono e accettano l'opera salvifica e sostitutoria di Cristo sulla croce, ma essi devono percorrere ancora un lungo cammino per liberarsi da certi pesi dalla loro coscienza, sensi di colpa che non hanno a che fare con dei peccati propriamente detti. Il maggiore dell'aviazione americana che ha sganciato la bomba atomica su Hiroshima non aveva fatto altro che ubbidire ai suoi superiori e non conosceva la portata distruttrice dell'arma, ma la sua vita è stata distrutta comunque dai sensi di colpa. Non possiamo negarlo, noi esseri umani siamo prima di tutto esseri morali. Alcuni vogliono farci credere che la morale come principio non esiste, che sia il frutto della cultura. La cultura per certo può produrre differenti costumi, ma non il principio del bene e del male. Proprio a causa di questo principio innato, in noi viviamo condizionati dalla nostra morale, dalla nostra coscienza, e per questo ci troviamo a vivere bene o male a seconda del modo in cui ci rapportiamo con la nostra morale. Una coscienza che porta dei sensi di colpa, che si sente colpevolizzata, non può recare pace e serenità, perciò è possibile vivere apparentemente tranquilli e trascinare nel proprio intimo drammi incredibili che a volte terminano in tragedie. L'unica soluzione a questa drammatica realtà è liberare la coscienza inquinata e riportarla a quell'originale purezza che era caratteristica quando Dio l'ha creata. Compito assai difficile, ma non impossibile. Aiutare qualcuno a risolvere i propri problemi consci e inconsci, diventando più onesto con se stesso, significa avvicinarlo a Dio, anche se chi aiuta e chi è aiutato non hanno sempre coscienza di compiere un atto religioso. Non è possibile relegare tutto ciò che è cristiano unicamente a ciò che è prettamente biblico, perché esistono metodi che, pur non avendo un supporto biblico, sono comunque di origine divina. Quando leggiamo nella parola di Dio che chi pratica la verità viene alla luce, dobbiamo intendere il significato di tale promessa. Com'è possibile praticare la verità se non si ha la luce? Com'è possibile agire bene se non si conosce in che cosa consiste il bene? Eppure molte persone praticano la verità senza rendersene conto. Quando si insegna ad essere onesti, sinceri, leali, ad essere altruisti, si stanno insegnando i principi di Dio. È Dio che ha parlato fin dall'inizio di misericordia, di fedeltà. Perciò ogni espressione conforme al volere di Dio rientra nel campo di Dio. Colui che ha un comportamento retto arriva a conoscere la verità molto prima di chi ha un cammino radicato nel peccato. Perciò una coscienza abituata ad agire nella rettitudine, ad essere onesta con se stessa e con gli altri, avrà meno problemi di quella appartenente a chi ha basato la sua vita sulla disonestà. Per vivere da liberi e liberati è indispensabile affrontare la quotidianità nella sua cruda drammaticità. Eppure, pochi sono coloro che guardano in faccia la realtà. L'atteggiamento che ricorre più frequentemente consiste nell'essere simili a chi guarda alcune sue foto e si rende conto che queste hanno reso la realtà della sua persona poco attraente, troppo reale. Allora, anziché accettare l'immagine concreta che offrono, vi sfugge mettendole da parte. Così, è per un problema di coscienza, esso spesso viene accantonato o si cercano alcune scappatoie ai pesi morali, esistenti o meno, che procura. Si minimizzano i sensi di colpa. Si dice a se stessi che, in confronto ad altre persone, non si è poi messi così male. Oppure, ci si dice cosa ci vuoi fare, sono fatto così. Si scaricano i barili. In altre parole, si dà la colpa a qualcosa o a qualcun altro. All'educazione, agli effetti negativi dell'ambiente, allo stato di salute, al destino. Tutto e tutti hanno colpa, salvo noi. Si cercano dei surrogati. Questo succede quando si è sgarbati con qualcuno e poi si cerca di essere carini, piuttosto che ammettere la propria mancanza. Oppure, nel caso del genitore, che non dedica del tempo ai figli, ma fa a questi dei regali o dà molti soldi. Si usa la sessualità. Persone che sono infedeli nel matrimonio e cercano di trovare in un altro quello che non gli è riuscito con il proprio coniuge. Mediante la religiosità. Ogni religione è una dimostrazione del tentativo dell'uomo che cerca di accattivarsi il favore di Dio perché si sente colpevole, come quella madre pagana che si strappa dal seno il bimbo e lo getta in pasto ai coccodrilli. In questo gesto cerca di trovare favore presso il Dio in cui crede. Nascondere la realtà, rifugiarsi nella religiosità non potrà mai cancellare le nostre colpe, le nostre frustrazioni, i sensi di colpa. Se così fosse, le persone sarebbero libere e liberate, mentre a quanto pare sono soprattutto i religiosi a provare i sensi più forti di colpevolezza. C. È la possibilità di liberarsi da inutili pesi e dai sensi di colpa. Sì, mediante la conoscenza di Gesù Cristo che si ottiene per mezzo della parola di Dio. Ho l'impressione che pochi abbiano compreso il valore della parola di Dio. Vedono in essa un semplice libro di ordini e divieti. Trovano interessanti le storie del popolo di Israele, di Gesù e degli apostoli, ma niente più. Eppure se i sensi di colpa si nutrono dell'ignoranza, delle tenebre, del dubbio e della confusione, allora la parola di Dio è quella che fa per noi. I credenti dell'Antico Testamento, con l'affermazione «la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero», non intendevano sostenere solamente che la Scrittura faceva comprendere ciò che dovevano fare, ma anche che aveva il potere di togliere tutte le tenebre, comprese quelle dei sensi di colpa. Se per fede noi ci nutriamo delle buone, positive, sane promesse di Dio, esse diventeranno un veleno mortale per una coscienza corrotta. Forse non conosciamo la potenza liberatrice della parola di Dio. Ho letto la vincente testimonianza di un omosessuale che, benché predicasse la parola di Dio, continuava in tale pratica. Dopo molte vicissitudini ne fu liberato. Sapete come? Imparando a memoria interi capitoli della Bibbia. Noi possiamo imparare a memoria interi capitoli della Divina Commedia, dei Promessi Sposi o di qualsiasi altra opera letteraria, senza che questo produca in noi un cambiamento. La parola di Dio ha il potere di cambiare la nostra mente e di conseguenza il nostro atteggiamento verso la vita. Come disse un filosofo, non sono le cose che ci turbano, ma l'opinione che abbiano di esse. Niente di più vero. Ho realizzato quanto siano valide le promesse di Dio una sera particolare della mia vita. Mi sono svegliato di soprassalto e percepivo intorno a me una presenza oscura, maligna. Avevo nella mia mente la figura di un leone che sembrava intenzionato a divorarmi. Ero assalito dal terrore. Capivo di non avere via di scampo. Anche se con tutta la mia forza cercavo di cacciare via i pensieri negativi. Intrappolato com'ero, cominciai a ringraziare ripetutamente Dio perché ero un suo figlio. Prima con la mente, ma poiché non ottenevo nessun risultato, cominciai a lodarlo e ringraziarlo a voce alta. Lo ringraziai una, due, tre, non so quante volte, ma man mano che lodavo Dio, Perché gli appartenevo, avvertivo che questa presenza se ne andava. Pochi minuti dopo, ripresi a dormire. Se il Vangelo di Gesù Cristo è una buona notizia, allora questa riguarda non solo l'annuncio di scampare ad una condanna eterna, ma anche la nostra liberazione dai sensi di colpa, dai problemi morali. Il Vangelo non è valido solo per accedere alla beatitudine celeste, perché se fosse così, i figli di Dio sarebbero i più miserabili di questo mondo. Grazie a Dio, il messaggio di Cristo ha una valenza quotidiana, è indirizzato alla salvezza giornaliera, è valido per l'uomo del XXI secolo. Il Vangelo è una buona notizia non solo per la salvezza dall'inferno, ma anche per una vita libera dalle conseguenze del peccato. Quando una persona si riconosce peccatrice mediante l'opera dello Spirito Santo, pone fede in Cristo quale unico Salvatore, nasce di nuovo, diventa figlio di Dio. Questa esperienza non lo libera automaticamente dai pesi e da tutti i sensi di colpa, perché la sua coscienza deve ancora essere setacciata dalla rivelazione di Dio. Il figlio di Dio si troverà spesso bombardato dalla sua coscienza durante il proprio agire e così disorientato non riesce a comprendere cosa gli stia succedendo. A volte si sente accusato, a volte ripreso, altre volte convinto di peccato, per cui egli è costretto a considerare questi tre segnali e la loro provenienza. Sono molti coloro che per questa mancanza di distinzione vivono nella confusione, camminano come se fosse buio, si interrogano continuamente se quello che fanno è giusto o sbagliato. Poiché sono tre le fonti dalle quali ci rendiamo conto di aver sbagliato, non essendo in grado di distinguerle, vivremo una vita aggravata da pesi e problemi non indifferenti. I tre agenti o le tre fonti che ci parlano di peccato sono il diavolo, la coscienza e lo Spirito Santo. Come distinguere l'opera di uno da quella dell'altro? Quali sono le caratteristiche che ci permettono di riconoscere chi, fra il diavolo, la coscienza o lo Spirito Santo, sta facendo pressione in noi nel momento in cui iniziamo a renderci conto delle nostre mancanze? La risposta è alquanto semplice. Dal modo in cui essi agiscono e dal risultato che producono siamo in grado di riconoscere chi sta agendo su di noi. Consideriamo dettagliatamente ogni aspetto. L'azione del diavolo accusa e allontana l'uomo da Dio, Apocalisse 12:9-11. Nella Bibbia troviamo un personaggio citato molto frequentemente. Il mondo non crede che egli esista. Una certa teologia lo mette in dubbio. Alcuni ne parlano in modo sbagliato. Mi riferisco al diavolo, Satana, l'avversario di Dio, l'accusatore dei credenti, il principe di questo mondo. Due sono gli errori che comunemente si fanno riguardo all'avversario di Dio, Satana. Uno è dargli pochissima importanza, l'altro dargliene troppa. Pensare che il diavolo sia solo il frutto di una mente poetica ed esaurita è un tragico errore. Dargli però un'importanza sproporzionata, immaginando che egli abbia un potere pari a quello di Dio, significa adorarlo, un altro grave errore. Queste due posizioni sono errate. Da queste il diavolo trae il suo profitto. Sia venendo ignorato, o invece adorato, egli riesce a compiere il suo lavoro di distruzione indisturbato. Bisogna quindi parlare di Satana, almeno per tre motivi. Uno, per dire le cose come stiano veramente. Due, perché la verità rende liberi. Tre, perché conoscere Satana e la sua opera nel modo giusto significa togliere l'ignoranza dai nostri cuori. E conseguentemente la paura, il dubbio, i sensi di accusa, proprio perché viviamo in una società che si definisce cristiana, e proprio perché mi indirizzo a persone che per lo più pensano di essere cristiane, propongo ciò che si legge nel Catechismo della Chiesa Cattolica Romana. In riferimento al primo comandamento sotto la voce Divinazione e Magia, paragrafo 2115-2116, 2117, leggiamo: Dio può rivelare l'avvenire ai suoi profeti o ad altri santi, Tuttavia, il giusto atteggiamento cristiano consiste nell'abbandonarsi con fiducia nelle mani della provvidenza per ciò che concerne il futuro, e a fuggire da ogni curiosità malsana a questo riguardo. L'imprevidenza può costituire una mancanza di responsabilità. Tutte le forme di divinazione sono da respingere, ricorso a Satana o ai demoni, evocazione dei morti o altre pratiche che a torto si ritiene che svelino l'avvenire. La consultazione degli oroscopi, l'astrologia, la chiromanzia, l'interpretazione dei presagi e delle sorti, i fenomeni di veggenza, il ricorso ai medium occultano una volontà di dominio sul tempo, sulla storia, ed infine sugli uomini, ed insieme un desiderio di rendersi propizie le potenze nascoste. Sono in contraddizione con l'onore e il rispetto, congiunto a timore amante, che dobbiamo a Dio solo. Tutte le pratiche di magia e di stregoneria con le quali si pretende di sottomettere le potenze occulte per porle al proprio servizio ed ottenere un potere soprannaturale sul prossimo, meno fosse anche per procurargli la salute meno, sono gravemente contrarie alla virtù della religione. Tali pratiche sono ancor più da condannare quando si accompagnano ad una intenzione di nuocere ad altri, o quando in esse si ricorre all'intervento dei demoni. Anche portare gli amuleti è biasimevole. Lo spiritismo spesso implica pratiche divinatorie e magiche. Pure adesso la Chiesa mette in guardia. Il ricorso a pratiche mediche, dette tradizionali, non legittima né l'invocazione di potenze cattive, né lo sfruttamento della credulità altrui. Dopo tale avvertimento e riprensione, mi chiedo come sia possibile assistere ogni giorno in una società come la nostra, definita cristiana, alla continua proliferazione di trasmissioni televisive, basate su lettura d'oroscopi e consultazioni di maghi e cartomanti. Inoltre, pratiche quali la chiromanzia, fenomeni di veggenza, il ricorso ai medium ormai sono sempre più di dominio pubblico. Non vi sono tante risposte. O la gente non è sufficientemente informata, e allora vescovi, sacerdoti e religione cattolica sono colpevoli di trascuratezza, oppure tali avvisi vengono rispettati, come viene rispettata la parola di Dio, parole belle, utili, giuste, buone, ma che rimangono sempre solo parole. Rimaniamo dunque nell'abito del nostro studio per esaminare come Satana sia l'accusatore. Così il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra. Con lui furono gettati anche i suoi angeli. Allora udì una grande voce nel cielo che diceva: ora è giunta la salvezza, la potenza e il regno del nostro Dio, e la potestà del suo Cristo, poiché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e per mezzo della parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, tanto da esporla alla morte. In ogni cultura esiste il concetto del bene e del male, e che questi siano in eterno conflitto. Ad eccezione del cristianesimo, nelle diverse religioni esistenti al mondo e nelle culture dei vari paesi dove esse vengono professate, questa ostilità viene rappresentata nei modi più disparati. La scrittura che l'Eterno Dio ci ha data però presenta Dio dal quale procede ogni bene e un essere angelico che ha dato inizio ad ogni sorta di male. Questo essere angelico, che non è né uomo né Dio, non ha un nome proprio, ma gli appellativi che gli vengono attribuiti rivelano alcune sue caratteristiche. Egli viene definito come il tentatore, il maligno, l'uomo forte, il nemico, il principe dei demoni, il principe di questo mondo, il padre della menzogna, il principe della podestà dell'aria, l'iddio di questo secolo, l'avversario, l'uccellatore, l'anticristo, l'omicida, il distruttore, l'angelo dell'abisso, il gran dragone, il serpente antico, il seduttore, Satana, diavolo e infine l'accusatore. Se il nome rivela una caratteristica peculiare di una persona, tali appellativi rivelano che questo essere angelico è antitetico a Dio e agli uomini. A scanso di equivoci, dobbiamo sottolineare che questa visione dualistica, tendente a contrapporre Dio a Satana, quasi che questo conflitto fosse permanentemente in atto alla pari, non esiste. In Cristo, Dio ha vinto Satana, egli è uno sconfitto. La sua influenza è stata detronizzata. Prendiamo in esame gli ultimi due soprannomi citati, Satana e Diavolo. La parola Satana deriva da un termine ebraico, che significa avversario. In effetti leggiamo nel libro di Giobbe che un giorno avvenne che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti all'Eterno e in mezzo a loro andò anche l'avversario. In ebraico non vi è l'articolo davanti al termine avversario. Satana non è, allora, come si pensa comunemente, il nome proprio dell'angelo che si è ribellato a Dio, ma è una qualifica. Anche l'altro nome attribuito all'avversario di Dio, cioè diavolo, deriva dal greco diabolos, che significa calunniatore, e non è nome proprio ma aggettivo qualificativo. Proprio perché è un calunniatore, un accusatore, lo scopo principale e primario del diavolo è accusare tutti gli uomini, ma principalmente coloro che sono stati salvati e giustificati dal sangue di Cristo. Così descrive una visione. Il profeta Zaccaria, l'Eterno, mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè, che stava ritto davanti all'angelo dell'Eterno, e Satana che stava alla sua destra per accusarlo. Zaccaria 3, 1. Notiamo che l'azione di Satana di condanna e di calunnia, prima di iniziare nella coscienza dell'uomo, è compiuta al cospetto di Dio. Ma, per un figlio di Dio, ogni sua accusa viene tacciata dal sacrificio di Cristo. Alla croce per il sangue espiatorio di Gesù Cristo, ogni peccato è stato perdonato. Ora a chi crede in Gesù Cristo non rimane che vivere nella pace, sapendo d'aver ricevuto una giustizia eterna e perfetta. Nonostante ciò, l'accusatore continua ad accusare chi è cosciente di sbagliare. E poiché tutti sbagliamo in molte cose e in molte maniere, l'umanità intera, figli di Dio compresi, si sente accusata, si sente schiacciata dalla propria coscienza. Una simile situazione morale induce la persona a fuggire, ad allontanarsi da Dio come Adamo ed Eva fuggirono davanti all'Eterno. Quando si è accusati si è tristi, di quella tristezza secondo il mondo. A volte Satana mette nella coscienza del credente il dubbio, anche riguardo alla genuinità del proprio pentimento nell'andare alla croce. La verità che libera da tale dubbio è che Dio non ci accetta per il progresso spirituale, per la profondità del pentimento o per la vittoria sul peccato, ma unicamente per il sangue di Cristo. Noi non ci avviciniamo a Dio per il valore che noi diamo al sangue, ma per il valore che Dio ha dato al sangue di Cristo. La testimonianza di Dio scaccia Satana. I credenti in Cristo hanno la lampada della parola di Dio, ma se non la usano è come fosse messa in scatola, è inservibile. Saranno sempre nel buio. Abbiamo la promessa di Dio che Satana non farà di più di quello che lui permette. Proprio per non essersi rivolto a Cristo accettando la riconciliazione che egli gli ha offerto con il boccone, quando Giuda si rese conto di aver sbagliato avendo tradito Gesù, o diremo noi a ragion veduta, quando si è sentito accusato dal diavolo per aver commesso un simile crimine, si allontanò e andò ad impiccarsi. Matteo 27,5. Io credo che quel si allontanò sia riferito non solo fisicamente ma soprattutto spiritualmente. Accusato, Giuda si allontanò dall'amore di Cristo che gli aveva offerto il boccone, per andare in un luogo dove per l'eternità vive con un eterno rimorso, per aver ceduto alle accuse del diavolo. La sorte di Giuda è la sorte di milioni di persone che ogni giorno, in quello che noi chiamiamo un raptus di follia, si tolgono la vita e la tolgono agli altri. Il senso di accusa impadronisce talmente la coscienza di queste persone da diventare letale, portandole a preferire gesti estremi piuttosto che vivere dietro al banco degli imputati. Solo l'eternità rivelerà l'opera distruttrice di Satana nelle coscienze delle persone, soprattutto in quelle che hanno avuto occasione di conoscere il Vangelo e non lo hanno accettato. Ho conosciuto una donna che ha rifiutato coscientemente l'Evangelo dicendomi: «Io non accetto un Dio così com' ed è scritto nelle Scritture. Preferisco vivere a modo mio». Dopo qualche anno si tolse la vita. Aveva rifiutato il Dio della vita per vivere a modo suo, ma non esiste vita senza Dio. solo in cielo conosceremo quanto sia devastante l'azione diabolica dell'accusa di Satana. Ne cogliamo appena un barlume dai suicidi di ogni giorno. Ma chi va alla croce è stato liberato dal potere delle accuse di Satana. Gesù disse: chiunque perciò mi riconoscerà davanti agli uomini, io pure lo riconoscerò davanti al Padre mio, che è nei cieli. Su questa promessa riposa il credente. Come vincere allora le accuse di Satana? Abbiamo letto nel libro dell'Apocalisse che l'accusatore è stato vinto dai figli di Dio mediante il sangue dell'agnello, mediante la loro testimonianza e l'essere disposti a morire per Cristo. Non vi è terapia migliore di questa per vincere una coscienza accusata di peccato da Satana. Una mente che si è impossessata delle promesse di Cristo realizza la libertà di coscienza dei figli di Dio. L'azione della coscienza riprende e abbatte un'anima, Giovanni 8:2-10. Parlare della coscienza significa affrontare uno degli argomenti più difficili che riguardano l'uomo. Per coscienza intendo quella parte di noi stessi che giudica le nostre e le altrui azioni dal punto di vista morale, oppure quelle profonde convinzioni radicate in noi su ciò che è bene e ciò che è male. L'essere umano è dotato di coscienza fin dalla sua nascita, e questa caratteristica è forse quella che lo distingue di più da ogni altro essere vivente, sia del regno vegetale che animale. Infatti il bambino, prima ancora di ricevere un'educazione vera e propria, conosce il senso di colpa e quindi si vergogna, si nasconde o si scusa. È anche vero che accade di rimanere scioccati constatando come alcuni commettono azioni scorrette o spietate con la più grande serenità di coscienza. Vi sono persone che mentono e rubano e si sentono sereni nella loro coscienza. Persone che commettono omicidio e adulterio senza porsi problemi morali. Persone che commettono stragi mettendo bombe o dichiarando guerra, ma non avvertono sensi di colpa né soffrono di insonnia a causa del rimorso. Ma di norma, se ci riflettiamo, ogni giorno noi parliamo, agiamo, ci relazioniamo con il prossimo sui parametri di ciò che noi riteniamo sia bene o male. Una nazione fa guerra ad un'altra perché, in coscienza, ritiene giusto intervenire in questo modo. William Carey, un grande missionario, si risposò un mese dopo la morte della moglie, ma fu disapprovato dalla missione che lo sosteneva, perché ciò fu considerato un gesto indecente. La coscienza rimane quindi l'arbitro più o meno segreto di ogni nostra azione, di ogni nostro rapporto con il prossimo, di ogni nostra parola, la ragione delle nostre liti e di certi suicidi. Nel 1992 alcuni politici italiani accusati di aver ricevuto tangenti hanno preferito il suicidio piuttosto che la vergogna. Dobbiamo riconoscere onestamente che spesso noi giudichiamo più sulla base della cultura che su quella della morale cristiana. I figli di Dio non possono essere estranei alla loro cultura. Una donna europea si beffava di un'altra donna orientale perché portava del cibo sulla tomba di suo marito, dicendo: «Tanto non mangia quello che gli porti». «È vero», disse l'altra, «ma neanche i vostri morti odorano il profumo dei fiori che portate loro». Questo esempio dimostra che non possiamo affermare con sicurezza che sia sbagliato quello che noi siamo soliti condannare, né viceversa che ciò che riteniamo giusto sia veramente tale. Tutto si fonda sulla nostra morale o sulla nostra cultura. Ho visto una vignetta umoristica nella quale due genitori vestiti in modo trasandato rimproveravano la figlia perché era vestita tutta a puntino. Non esiste un'etica uguale per tutti, una condotta universalmente uniforme. La coscienza, appoggiata dall'etica e dalla cultura, non è dunque un metro morale assoluto. I valori della coscienza mutano col passare del tempo. Tutti siamo relativi. La coscienza è come uno specchio, ci mostra quello che non va, ma non può darci consigli morali sempre giusti. Occorre quindi un aiuto dall'esterno, sicuro, autorevole, assiomatico. Questo non può darcelo altri che Gesù, perché disse: «Io sono la via, la verità e la vita». Poiché Cristo in questo momento siede alla destra di Dio, non parla con voce umana direttamente all'uomo, egli si è preoccupato di far scrivere quanto ha insegnato da parte di Dio. Per far svanire ogni dubbio disse: la tua parola è verità. La Bibbia è quindi la parola di Dio, la parola di Cristo. Essa è stata per secoli e secoli la guida morale di chiunque abbia voluto e voglia fare la volontà di Dio. È evidente che deve essere letta, studiata, meditata, perché possa diventare una lampada al piede di chi desidera camminare con sapienza. Leggiamo l'episodio della donna adultera descritto in Giovanni 8, 2-10. Sul far del giorno tornò di nuovo nel tempio, e tutto il popolo venne da lui, ed egli, postosi a sedere, gli ammaestrava. Allora i farisei e gli scribi gli condussero una donna sorpresa in adulterio, e, postala nel mezzo, dissero a Gesù: Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto, mentre commetteva adulterio. Ora, nella legge Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne, ma tu che ne dici? Or dicevano questo per metterlo alla prova e per aver di che accusarlo. Ma Gesù, fingendo di non sentire, chinatosi scriveva col dito in terra. E, come essi continuavano ad interrogarlo, egli si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Poi, chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Quelli allora, udito ciò e ripresi dalla coscienza, se ne andarono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna, che stava là in mezzo. Gesù dunque, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: Donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. Gesù allora le disse: Neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Questo episodio molto famoso mette in evidenza che una coscienza assopita può essere ridestata quando si paragona il proprio operare a quello di un altro. Coloro che accusavano la donna si resero conto di essere mancanti solo quando dovettero paragonarsi con l'accusata. I traduttori traducono variamente l'azione della coscienza negli accusatori nel rendersi conto di essere mancanti. Alcuni rendono: essi, udito ciò, e accusati dalla loro coscienza, uscirono uno a uno; altri, quelli. Allora, udito ciò, e convinti dalla coscienza, se ne andarono ad uno. Ma molto probabilmente la traduzione più attendibile è quella del IX secolo, che rende: quelli allora, udito ciò, e ripresi dalla coscienza, se ne andarono ad uno. Questa traduzione rende giustizia all'opera di Satana della coscienza e dello Spirito Santo. L'accusa, come abbiamo considerato, è tipica di Satana, mentre l'opera di convincimento è, come prenderemo in esame, tipica dello Spirito Santo. Perciò non rimane che attribuire alla coscienza l'opera della riprensione, un'opera che non necessariamente conduce a Dio. Mentre quando si è accusati si ha per istinto il desiderio di difendersi e di allontanarsi da Dio, quando si è ripresi, si è tentati a chiudersi in se stessi e allontanarsi dal prossimo. Quando ci si sente accusati, si tende ad abbandonare ogni sentimento religioso. Quando si è ripresi, si tende ad isolarsi ed evitare la comunione fraterna. I due sentimenti che producono l'accusa e la riprensione spiegano anche perché alcuni figli di Dio, improvvisamente, senza nessuna apparente motivazione, abbandonano la vita comunitaria. Posso testimoniare questo per conoscenza personale, perché per l'amicizia che possiedo con tanti credenti ho ricevuto molte confidenze di peccati non indifferenti e non confessati che costringevano questi credenti ad abbandonare la comune adunanza. Non si sentivano più a loro agio e per loro avveniva ciò che troviamo scritto nel Salmo 1: perciò i peccatori non reggeranno nell'assemblea dei giusti. Un esempio eclatante di cosa può produrre la coscienza è quello di Ahitofel, l'amico del re Davide. Quando Absalom, il figlio di Davide, cercò di usurpare il trono di suo padre, Ahitofel, nonostante fosse amico del re, si mise dalla parte di Absalom. In seguito, poiché il suo consiglio non fu ascoltato, si piccò. Molto probabilmente fu un atto di orgoglio. Ma non è improbabile che Ahitofel, avendo tradito l'amicizia con il re, ripreso dalla coscienza, si sia sentito colpevole e, piuttosto di confessare il proprio errore, preferì uscire dalla scena senza dover subire l'umiliazione. non ascoltare la riprensione della coscienza può essere fatale. Paul Tournier, nel suo libro Medicina della persona, afferma che gli psicologi hanno dimostrato che quando una tendenza profonda, contraria all'ideale morale del soggetto, si fa luce nel suo cuore, oppure si manifesta con atti che la coscienza riprova, il ricordo di quegli atti o dei sentimenti colpevoli è cacciato fuori dal campo della coscienza. Da allora quella tendenza e quei ricordi respinti riappaiono sotto altra forma, e cioè sotto forma di immagini di sogni, di atti mancati o di sintomi nevrotici, paralisi, disturbi funzionali, ossessioni. Per quanto imperfetta, la coscienza rimane comunque una luce divina e chi si oppone ad essa può perdere la fede. Vi è però un'altra esperienza. Può anche darsi che non sempre siamo convinti che fare la volontà di Dio sia la cosa migliore o che fare una cosa contraria a ciò che Dio afferma sia veramente sbagliato. Ma se la nostra coscienza, per fede, segue il volere di Dio, sarà purificata al punto tale da trovarsi in sintonia con ciò che Dio vuole. E se alla fine, dopo aver fatto la volontà di Dio, la coscienza continua a suscitare dubbi se esiste una scissione in noi causa la nostra natura corrotta, allora dobbiamo dire con l'Apostolo Giovanni: se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Ecco la serenità della coscienza di un cristiano. Egli continua con fiducia a compiere il volere di Dio anche se viene disturbato dalla coscienza, perché il volere di Dio è più perfetto della voce della coscienza. Potrebbe essere difficile per un credente, specialmente se è giovane e nubile, riconoscere un criterio di ragionevolezza nel limitare il rapporto sessuale solo all'ambito del matrimonio, ma anche se non riesco a giustificare come buono né per me né per gli altri un certo comandamento, una cosa è buona perché la vuole Dio. L'importante non è essere sempre convinti dell'esattezza morale di una data azione, ma è sapere che non si sta facendo nulla contro la volontà di Dio. Questo è quello che la Scrittura chiama il timor di Dio. Poiché la voce della coscienza si limita a riprendere, poiché è incapace di portarci a Gesù Cristo, Dio ha provveduto un altro mezzo per aiutarci ad andare a Lui: il convincimento di peccato compiuto dallo Spirito Santo. L'azione dello Spirito Santo, convincerci di peccato e avvicinarci a Dio, Meno 5:16-7:11. Non vi è nulla di più drammatico che vivere sotto il peso di un'accusa del diavolo o della riprensione della coscienza. Noi vorremmo liberarcene, ma non siamo in grado di uscire da simili situazioni. Per la sua grazia, Dio ci è venuto incontro con il giusto rapporto tra la colpa, o presunta colpa, e la sua giustizia, cioè convincendoci di peccato mediante lo Spirito Santo. Leggiamo ciò che Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché non credono in me, di giustizia perché io vado al Padre e non mi vedrete più, di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato». Se il diavolo ci accusa allontanandoci da Dio, se la coscienza ha la proprietà di indurci ad isolarci dal prossimo quando ci riprende, lo Spirito Santo ha il compito di convincerci di peccato spingendoci ad andare a Gesù Cristo per ricevere il perdono. Quando una persona è convinta, praticamente è disarmata e ha il profondo desiderio di umiliarsi davanti a Dio, confessare il peccato, e può trovare quindi la liberazione dal peso. Questo spiega perché anche tanti figli di Dio possono soffrire dei sensi di colpa, di frustrazione, perché non rispondono con sincerità al convincimento dello Spirito Santo. Poiché i figli di Dio, prima di essere tali, sono degli esseri umani, anch'essi sono influenzati dalla società in cui vivono, dove hanno ricevuto fin da bambini una cultura morale e un insegnamento religioso non conforme ai principi di Dio. Per questo non è sufficiente una conversione, la nascita di nuovo, perché colui che ha posto fede in Gesù si è in grado di sapere come comportarsi nelle svariate e imprevedibili situazioni della vita. ma occorre che la sua coscienza sia resa pura o, come diremo noi oggi, disinfettata, depurata, dalle accuse del diavolo e dalla riprensione della coscienza. Gli ebrei, maestri di purificazione per il desiderio di santità, hanno qualcosa da insegnarci. L'autore della lettera agli ebrei, sicuramente ebreo anche lui, scrisse: «Infatti, se il sangue dei tori e dei capri e la cenere di una giovenca spersi sopra i contaminati li santifica, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offerse se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente». Ebrei 9, 13-14. Se i sacrifici che l'Eterno Dio aveva ordinato avevano lo scopo di invitare chi li offriva ad essere santo e purificava anche il corpo, quanto più il sacrificio di Cristo sarà in grado di purificare, disinfettare e depurare non solo il corpo, ma anche la coscienza di chi ha posto fede in tale sacrificio. Questo è straordinario. Purificare un corpo è possibile anche in altre religioni, ma condurre in modo retto la coscienza è un'opera che solo Dio può compiere. E Dio può fare questo in chi ha posto fede in Gesù Cristo quale Salvatore e Signore. Prima di convertirmi mi inginocchiavo e pregavo davanti a delle statue senza sentirmi in colpa, mentre quando leggevo la Bibbia mi sentivo a disagio perché il prete me l'aveva proibito. Queste sono le assurdità della nostra coscienza. Per vivere una vita più serena e più conforme al volere di Dio, ricordiamoci che gli impulsi che non si concludono con una scelta e con un'azione non sono né virtuosi né sbagliati, ma è da ritenere errato solo ciò che facciamo di contrario alla legge di Dio, perché è scritto: il peccato è la violazione della legge. Quindi, ogni volta che ci sentiamo in colpa, o non in regola, o proviamo un certo disagio, prima valutiamo il tipo di messaggio che riceviamo e da chi lo riceviamo, poi esaminiamo la scrittura per averne la conferma. Se invece siamo tentati ad allontanarci da Dio, questo manifesta che non è Lui che ci sta parlando. L'opera dello Spirito Santo è quella di condurre sempre l'uomo a Cristo. Tutto ciò che ci allontana dal Salvatore, persino se proveniente da una verità biblica, è da ritenere dal maligno. Non dimentichiamo che Satana è un teologo, conosce la scrittura e la usa. Chi conosce le macchinazioni di Satana difficilmente cade nella sua trappola. Sono i sensi di colpa prodotti dalla società o da un insegnamento spirituale sbagliato che demoralizzano l'uomo e tendono ad allontanarlo da Dio. La convinzione di peccato prodotta dallo Spirito Santo invece illumina, libera e spesso è unita alla conoscenza di una promessa o rivelazione della Scrittura. Il Dio della parola umilia ma anche rialza. Dobbiamo mettere enfasi su questo ultimo aspetto, che sia la Scrittura a convincerci di peccato, perché ogni altro strumento è incerto. Poiché i sentimenti incontrollati sono spesso un grande danno, poiché a volte per svariati motivi possiamo provare sensi di colpa e tristezza, trovo più che mai opportuna una riflessione di C.S. Lewis. La mia idea personale, per quello che può valere, è che ogni tristezza che non nasca dal pentimento per un particolare peccato e non si affretti a riparare il danno o a risarcire l'ille offeso in modo concreto, o che non nasca dalla compassione e si affretti a fornire un'attiva assistenza, sia un male. E penso che quando disobbediamo senza ragione all'ingiunzione degli apostoli a in effetti, come vi è una pace che proviene dal mondo e una da Dio, così la Scrittura fa riferimento ad una tristezza prodotta dallo Spirito Santo e una prodotta dal mondo. Paolo aveva scritto una lettera che aveva rattristato i Corinzi e ne era dispiaciuto, ma in seguito se ne rallegrò, perché quella tristezza derivata dalla convinzione di peccato aveva prodotto in loro un santo desiderio di migliorare, di essere più consacrati a Dio. Questo episodio può dirci molto in merito alla comunione fraterna. Quando si parla da parte di Dio con spirito umile, contrito, teso per il bene al prossimo, si può produrre negli ascoltatori un senso di disagio, di tristezza, di contrizione. Ma ciò non deve portarci ad avere dei sensi di colpa, anzi è il giusto e inevitabile risultato del Vangelo di Cristo. Come distinguere quando si produce nel prossimo la tristezza secondo Dio dai suoi risultati? La tristezza secondo Dio prodotta dallo Spirito Santo produce un santo desiderio di avvicinarsi a Dio, la tristezza secondo il mondo causata solo dalla coscienza o dal maligno allontana le persone da Gesù Cristo. A nessuno piace essere corretti, eppure, come si esprime l'autore della lettera agli Ebrei, ogni correzione, infatti, sul momento, non sembra essere motivo di gioia ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Ebrei mezzogiorno e 11. Lo Spirito, quello santo, convince di peccato non per il gusto di far soffrire qualcuno, ma perché l'anima trovi la liberazione tramite il perdono per vivere serena e felice. Quando opera lo Spirito Santo, sentiamo delle confessioni pubbliche che edificano. Marito e moglie si rendono conto, ad esempio, che erano i loro brutti caratteri la ragione delle loro liti. Si umiliano e trovano pace e serenità. Il perdono è il mezzo che Dio usa per liberare i suoi figli dai sensi di colpa. Egli non cerca dei figli perfetti, ma onesti, sinceri, leali. Se i credenti non sono liberati dai loro sensi di colpa, o non provano abbastanza gioia, non è perché non sono abbastanza santi, ma perché non hanno abbastanza convinzione di peccato da trovare poi in Dio la gioia del perdono. Ho assistito più volte a separazioni e litigi che con il passare del tempo si sono ripristinati, ma se da un lato è stato lodevole, da un altro queste riconciliazioni ne hanno sempre fatto paura. Il ritrovamento dell'armonia dopo una lacerante separazione senza che vi sia stata confessione di peccato mi induce a concludere che tale riconciliazione non è stata il frutto dello Spirito Santo ma del diavolo. Come esiste una pace che proviene dal diavolo, come vi è una tristezza secondo il mondo, così vi è pure una riconciliazione che è del mondo, anzi diabolica. Se l'uomo non può essere salvato e riconciliato con Dio, se prima non si è riconosciuto peccatore, come possono gli uomini riconciliarsi se prima non confessano le proprie mancanze? Com'è possibile che marito e moglie abbiano una convivenza serena se i litigi e offese vengono risolti solo con il tempo? Com'è possibile per una comunità dove vi è stata una frattura dolorosa dopo maldicenze e accuse ritrovare un sentiero condiviso da tutti senza confessione di peccato? Se l'analisi degli psicologi è vera, se quello che viene cacciato fuori dal campo della coscienza riappare sotto forma di immagini, di sogni, di sintomi nevrotici, di paralisi, disturbi funzionali, ossessioni, allora noi possiamo ingannare noi stessi, ma non la nostra natura. Respingere la riprensione della coscienza, rifiutare la testimonianza di peccato dello Spirito Santo, ci porta ad avere una insensibilità verso il bene e il male e ad avere comportamenti incoerenti. Questo spiega anche la causa di tanto male e ingiustizia nel mondo e nelle comunità dei figli di Dio. L'uomo è pronto ad alzare il pugno verso Dio e giudicarlo ingiusto, ma non è altrettanto pronto con un atto di onestà a riconoscere i propri errori, a ammettere il proprio rifiuto nell'opera che lo Spirito Santo compie nel suo cuore. È vero che vi è gioia più in cielo per un peccatore che si ravvede anziché per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento, però questa verità non vale solo per i perduti, ma anche per i salvati che si ravvedono dei loro errori. Desideriamo essere liberati da problemi di coscienza? Vogliamo aiutare altri a vivere sereni? Esaminiamo le tre fonti o i tre agenti che ci parlano di peccato. Se ci sentiamo mancanti e desideriamo allontanarci da Dio, è Satana che ci accusa. Se ci sentiamo colpevoli e siamo solo abbattuti, è la coscienza che ci riprende. Se invece abbiamo coscienza di aver sbagliato e avvertiamo l'impulso di andare a Cristo per chiedere perdono, è lo Spirito Santo che ci convince di peccato. Chi con saggezza fa queste distinzioni tenendo gli occhi fissi su Gesù è in grado di correre con perseveranza la gara che gli è posta davanti, perché, deposto ogni peso e il peccato, vive nella libertà dei figli di Dio. Giugno 2004, Ellero.